cadranno. Continuerò a chiamare, prometto che sarai l'unica. Nel mio tutto non sarò insincero e ti prometto che per il tuo amore farò qualsiasi cosa. Ti darò le stelle, ti comprerò la luna e perfino durante le nostre difficoltà, perfino durante i giorni più bui, il nostro amore troverò un modo. E quando le stelle cadranno, continuerò a chiamare, ti amerò ancora. E quando i nostri giorni svaniranno, aspetterò. Sei la mia brezza estiva, il mio cupo inverno, sei il mio cielo, sei tutto per me. Il sorriso del mio cuore, il respiro della mia anima. Sei tutto